una giornata e sole, un'aria serena dopo una tempesta, quell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata e sole. Quando fa notte il sole scende.